Global Risk, file geopolitiche in movimento, a cura di Neurogreen. Per sovvertire l'Europa 00. Ogni mese su Radioactive, la tua stella polare nell'oceano della guerra globale. Aggiornamenti su radioactive.org. Info radioactive@posta.invidia.net.